La borsa della spesa. Cose fanno pure male. Gran parte delle strade nella zona nord-est di Roma sono andate in tilt già dalle prime ore di questa mattina, quando almeno 10.000 persone si sono riversate nella zona di Ponte Milvio. Una nota catena di negozi di elettronica offriva molti prodotti a prezzi ribassati. Italia, Stati Uniti, scene di ordinaria rissa per gli acquisti. Tutti a comprare in America per il cosiddetto Black Friday, il giorno in cui tradizionalmente parte la campagna saldi prenatalizi. Le vendite hanno fatto registrare un incasso record, 52,4 miliardi di dollari, in crescita del 16% rispetto allo scorso anno. Dati che ha subito fatto notare la National Retail Federation lasciano ben sperare per la stagione natalizia. Ma come? Non c'è la crisi, si chiedono in molti. Il fatto è che proprio perché c'è la crisi queste campagne promozionali registrano il sold out. Ma attenzione, fanno notare gli esperti, gli acquisti vengono anticipati, non moltiplicati. Si sfruttano gli sconti per comprare prima i regali di Natale. E saranno i dati di gennaio a dirci come sono andate veramente le cose, ci dice Sandro Castaldo, docente di marketing all'Università Bocconi. Isolerei un po' il caso europeo, in particolare quello italiano, dal caso statunitense. Chiaramente siamo in due contesti del tutto diversi, con diciamo tassi di crescita del tutto diversi per quanto riguarda sia il PIL sia i consumi. Però certamente insomma, concordo sul fatto che probabilmente bisogna aspettare i prossimi dati, perché siamo comunque a livello mondiale in un momento non facile e abbiamo visto che anche nel nostro paese e in generale in Europa la tendenza a comprare in promozione, ad acquistare beni in promozione sta aumentando in modo significativo, non solo per i beni durevoli come è capitato per alcuni piumini venduti con sconti molto forti a Milano, piuttosto che alcuni prodotti tecnologici scontati a Roma che hanno creato delle grandissime code nei punti di vendita, ma la vendita e l'acquisto in promozione si sta sviluppando molto anche per il largo consumo. C'è chi sottolinea però attenzione, perché il consumatore di oggi è un consumatore molto evoluto, è un consumatore che sa surfare in gergo tecnico tra le insegne alla ricerca dell'affare migliore. Questi affari non vogliono necessariamente dire che c'è una propensione all'acquisto anche sulle prossime settimane. Condivido, tant'è che c'è proprio una teoria dell'effetto proprio delle promozioni che aumentano in modo significativo le vendite durante il periodo promozionale, ma per via dell'effetto stock, dell'effetto appunto stoccaggio fatto dai clienti, le riducono le settimane o nei giorni successivi. Infatti per vedere l'effetto reale di una promozione bisogna misurare ciò che succede durante il periodo promozionale ma anche durante il periodo immediatamente successivo.